America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. If Barack Obama opens up and gives his college records, his passport applications and record, I will give a check for $5 million. Donald Trump. Beh, Donald Trump, devo dire, non è un personaggio di grande credibilità. È riuscito a fare grande fortuna nel settore immobiliare, naturalmente, ma cerca di intrufolarsi ogni volta che può nella politica. Ecco, ieri secondo me l'ha fatta un po' grossa, perché ha fatto un comunicato pubblico davanti alle reti televisive americane in cui ha sfidato Barack Obama a consegnare, a rendere pubbliche le sue domande di ammissione all'università e la sua domanda per ottenere il suo primo passaporto americano entro il 31 di ottobre. Se Barack Obama lo farà, ha detto Donald Trump, io gli regalerò $5 milioni. Non a lui direttamente, naturalmente, ma li metterà a disposizione per qualunque società non profit a cui Barack Obama li voglia donare in beneficenza. Ecco, è una cosa molto strana. È chiaro che dietro questo tentativo di Donald Trump si nasconde di nuovo l'ennesimo tentativo di imbarazzare Barack Obama sulle sue origini, sulla sua religione, e sul fatto che potesse essere nato o non nato negli Stati Uniti d'America, cose ormai archiviate e sepolte nella storia di questa campagna elettorale. Una provocazione di cattivo gusto, una provocazione secondo me inutile, a meno che Donald Trump non abbia qualche cosa nel cassetto che però avrebbe fatto meglio a tirare fuori, una provocazione alla quale naturalmente il presidente americano non ha risposto, nonostante in ballo potessero esserci $5 milioni da regalare in beneficenza. America 24. Ecco, a parte queste operazioni di disturbo mediatico che sono più delle curiosità che altro, come l'intervento di Donald Trump, i candidati sono seriamente al lavoro. Ormai il conto alla rovescia ci porta sempre più a ridosso di queste elezioni per la Casa Bianca 2012, martedì 6 novembre, ve lo ripeto, e la situazione resta piuttosto incerta. Abbiamo avuto intanto alcuni primi sondaggi del post dibattito. Da un punto di vista generale si conferma che Barack Obama è indietro sul voto popolare. Lo era però di più prima del terzo ed ultimo dibattito. Aveva un distacco negativo nei confronti di Mitt Romney di quasi 5 o 6 punti a seconda dei casi. Adesso, secondo Gallup, che ha rilasciato ieri notte un sondaggio terminato proprio nelle ultime ore nel post dibattito, Barack Obama ha ridotto il distacco a 3 punti. Si trova cioè ad avere il 47% delle preferenze teoriche del voto americano contro il 50% di Mitt Romney. E vorrei aprire una parentesi però, perché quel 50% non è irrilevante, nel senso che Barack Obama è sempre arrivato quasi al 49%, ma raramente è riuscito a sfondare la quota del 50%, che è molto importante per avere una sorta di effetto scia. Dunque, sul piano del voto popolare la corsa resta incerta, ma le elezioni, come sappiamo, non si giocano sul voto popolare, ma sul voto elettorale, cioè sui voti a cui ciascuno Stato ha diritto, e quindi nel momento in cui io candidato vinco uno Stato, con quello Stato mi porto appresso un certo numero di voti, 3, 5, 10, 12 a seconda dei casi, ed è la sommatoria dei voti legati agli stati che ho vinto che mi consentirà di prevalere o meno. Il totale necessario di voti per poter vincere la presidenza americana deve essere di 270. Ecco, sul fronte dei voti elettorali, dei grandi voti elettorali, Barack Obama si trova leggermente in vantaggio. E dunque c'è un paradosso che, se Obama riuscirà a vincere in Ohio, in Florida per esempio, avrà sicuramente la presidenza americana garantita. Potrebbe però perdere il voto popolare. Questo succede, è il modo in cui le elezioni americane sono strutturate, e in questi ultimi giorni che restano i candidati sono all'attacco l'uno dell'altro. Governor Romney may dance around his positions, but if you want to be president, you owe the American people the truth. Barack Obama parte con un giro di 4 stati: Iowa, Colorado, California, Nevada. La California è un po' inutile perché sappiamo che la vince comunque, e poi dovrebbe chiudere in Ohio, che è il vero stato chiave. Il passaggio per Los Angeles in realtà non è poco significativo dal punto mediatico, perché farà una registrazione al Tonight Show di Jay Leno, un programma nazionale che sicuramente potrebbe dargli qualche vantaggio. Mitt Romney, anche lui molto impegnato in campagna, 3 stati invece di 2: Reno, Nevada, di nuovo il Nevada, Cedar Rapids, Iowa, di nuovo l'Iowa e di nuovo l'Ohio, questa volta a Cincinnati. Se Mitt Romney riuscirà a vincere l'Ohio, che diventa sempre più stato chiave, ve lo dicevo, le probabilità di vincere la presidenza aumentano. Se non avrà l'Ohio, sarà molto molto difficile per lui riuscire a vincere le presidenziali americane. Per questo Barack Obama, anche lui, si sta molto concentrando su questo stato chiave. My fellow American, you must vote and you must re-elect President Barack Obama. Altra osservazione: Bill Clinton alla convention democratica di Charlotte è stato un fenomeno traino chiave, perché è stato dopo questa convention che Obama ha davvero decollato, soprattutto per un recupero di sicurezza sul fronte economico grazie proprio all'intervento di Bill Clinton. Però Bill Clinton, e questa è una rivelazione di questa mattina del New York Times, ha dato un consiglio che forse non è stato il migliore a Barack Obama, e cioè gli ha detto: voi dovete cambiare assolutamente strategia elettorale, dovete abbandonare la vostra politica che continua a battere e ribattere sullo stesso messaggio, e cioè che Mitt Romney è incostante, poco affidabile, un flip-flop, continua a cambiare la sua posizione, soprattutto è poco autentico, rigido, insomma di lui non ci si può fidare. Ecco, diventava troppo questo un attacco personale davanti a un personaggio che poi nei dibattiti è molto bravo, e abbiamo visto che in effetti è stato molto molto bravo, e dunque Clinton ha consigliato Obama di virare strategia e di puntare sul fatto che Mitt Romney in realtà è un grande conservatore, deciso, determinato, anche pronto a indossare, come ha fatto del resto negli ultimi comizi, soprattutto negli ultimi dibattiti, il mantello dell'agnellino, del centrista, del moderato. Ecco, Barack Obama ha seguito questo consiglio di Bill Clinton, in realtà gli è andata male, perché Mitt Romney, dopo aver virato a destra con la nomina di Paul Ryan, ha poi subito dopo virato al centro e quindi ha riconquistato in qualche modo il centro del voto politico americano, spiazzando gli strateghi di Barack Obama. E dunque l'attacco suggerito da Bill Clinton semmai è arrivato tardi e probabilmente a quel punto era sbagliato. Su tutto comunque continua a dominare l'economia. La borsa ieri è stato così un campanello d'allarme pericoloso per Barack Obama, perché segnala di nuove incertezze economiche, caduta dei profitti. C'è stata una riunione della Federal Reserve che conferma la politica accomodante, quindi questa invece è una notizia positiva, e Barack Obama è partito all'attacco. Il governo americano ha fatto causa da $1 miliardo contro la Bank of America per mutui, diciamo, poco trasparenti venduti a Fannie Mae e a Freddie Mac. Una decisione secondo me molto politica, per dare l'idea di quanto questo presidente sia attivo per proteggere il cittadino comune, il consumatore. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Tinderbox Music Festival torna a New York l'11 novembre. Per 12 ore 30 band suoneranno in quello che è il più grande evento musicale al femminile dell'anno. E la canzone la dedico a Coco Rosie, che sarà sul palco quel giorno. We Are On Fire. I'm marvelous. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!